speciale di me, che sa cantare ma più stemmi da lustrare di me. Questo è il tuo svago. Per quel che mi riguarda sei un